Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Si torna in classe, tra poco la campanella per tutti gli studenti della regione, che sono però sempre di meno. Corsa fotovoltaico per far fronte al caro bollette, gli incentivi ci sono ancora e le pratiche sono state semplificate. Afflusso da vecchi tempi a Friuli Doca, Udine, entusiasmo ritrovato per la vetrina dell'enogastronomia regionale. Salvataggio sul campanile di Val Montanaia, accordata di tre alpinisti bloccata lungo la discesa, interviene l'elicottero. Ritorno in grande stile per la Pordenone Pedala, 4.000 partecipanti ieri alla non competitiva. Calcio, l'Udinese batte anche Sassuolo, quarta vittoria consecutiva, i bianconeri salgono fino a un punto dalla vetta. Addio allo scrittore spagnolo Javier Marías, nel 2011 a Percoto vinse il premio internazionale Nonino. 7:19 di lunedì 12 settembre, buongiorno da Maria Spezia e Rita Micoli. Subito uno sguardo alla situazione meteo, il cielo è poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti, le temperature registrate alle 6, a Trieste 18 gradi e 5 decimi, a Pordenone 16 gradi, a Gorizia 14 gradi e 5 decimi, a Udine 13 gradi e mezzo. A Tolmezzo 12 gradi, sul Piancavallo 9 gradi e 5 decimi, a Forni di Sopra 9 gradi, a Tarvisio 5 gradi, a Sappada 4, sul Monte Zoncolan 8 gradi, sul Lussari 7, sulla costa Lignano 19 gradi e 5 decimi, 18 a Grado, temperatura del mare nelle due località 23 gradi. Le previsioni a cura dell'Agenzia Regionale di Protezione Ambientale per oggi: cielo in genere poco nuvoloso, anche sereno sulla costa, tratti variabili sulla zona montana, venti a regime di brezza. Le scuole riaprono tra pochissimo, ma con meno alunni, tantissimi banchi vuoti rispetto a un anno fa a causa del calo demografico. Da un anno all'altro si sono perse più di 50 classi. La situazione più critica è in montagna, dove la regione ha impegnato risorse extra per evitare di chiudere le scuole. Un'emorragia di studenti continua, dovuta quasi esclusivamente al calo demografico. Nella scuola che inizia questi giorni ci saranno quasi 2.500 iscritti in meno rispetto a 12 mesi fa, un numero che prosegue il trend dell'ultimo decennio e che è più marcato nella provincia di Udine. Quest'anno scolastico, anche se non contiamo le scuole per l'infanzia, dove le iscrizioni sono volontarie e dove comunque Udine e Pordenone perdono più di 400 bambini contro i soli 5 di Trieste e Gorizia, tutto il Friuli ha un calo di studenti che si spiega solo in parte con il numero di residenti più alto. 539 alunni in meno alla primaria, 341 alla secondaria di primo grado e 349 a quella di secondo grado. Nell'addestra tagliamento il crollo c'è solo nelle ex elementari, con gli studenti delle superiori che addirittura aumentano considerevolmente, più 170 unità. La regione complessivamente perde 426 bambini all'asilo, ben 1179 alle elementari e 663 alle medie, sopprimendo 54 classi pur mantenendo più o meno costante il numero di insegnanti. Il problema riguarda anche le scuole di lingua slovena, che da un anno all'altro perdono quasi il 10% di iscritti al primo ciclo scolastico. Il modello complessivo e inevitabile andrà ripensato in futuro, quando il calo potrebbe essere ancora più marcato. La regione, intesa come ente, ha stanziato 3 milioni extra per quest'anno scolastico. Di questi, 400.000 serviranno per consentire l'attivazione delle pluriclassi delle scuole di montagna, dove lo spopolamento è 8 volte più grave che nel resto del Friuli. Con questi fondi i dirigenti scolastici potranno pagare insegnanti e collaboratori, evitando la chiusura delle sedi di paesi sempre più abbandonati. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. E per la prima volta dall'inizio della pandemia, oggi si torna a scuola senza mascherine, tranne per il personale scolastico e gli alunni più a rischio. Senza orari diversificati, senza distanziamento e non è prevista la didattica a distanza. Se un alunno si ammala di Covid, rimarrà a casa come quando prende una qualsiasi malattia, dunque senza poter seguire le lezioni in collegamento con la classe e con il docente. Sarà consentita la frequenza delle lezioni con sintomi respiratori di lieve entità e senza febbre, si legge nel vademecum che il Ministero ha inviato ai presidi. Questo anche per il primo e secondo ciclo di istruzione. Si potranno frequentare le lezioni indossando mascherine chirurgiche fino alla fine dei sintomi e avendo particolare cura per l'igiene. Se invece la sintomatologia sarà compatibile con il Covid, con temperatura superiore ore 37 gradi e 5 decimi, e tampone positivo, la permanenza a scuola degli alunni non sarà consentita. Sarà inaugurata alle 8 la scuola secondaria di primo grado Ippolito Nievo di Pradamano, in cui sono stati completati interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico. Negli ultimi tempi, a fronte dei rincari a tre cifre di bollette di gas ed elettricità, è aumentata in modo significativo la richiesta di pannelli fotovoltaici, una soluzione che usufruisce ancora di incentivi statali e con pratiche di installazione che sono state recentemente semplificate. In tempi di crisi energetica, con i prezzi dell'energia e del gas che negli ultimi mesi hanno subito una vera e propria impennata, sempre più cittadini e imprese hanno scelto di garantirsi l'autonomia energetica installando pannelli fotovoltaici. Per un'abitazione privata, spiegano le imprese del settore, il costo medio comprensivo dello sconto in fattura previsto dalle agevolazioni statali si aggira tra i 7 e i 9 mila euro. La domanda crescente dell'ultimo periodo si trova di fronte a un incremento dei tempi di installazione, mentre il prezzo dei moduli fotovoltaici è stabile da mesi. Andrea Perin, imprenditore. Sicuramente negli ultimi tempi è aumentata notevolmente, legato un po' alle vicende note anche dell'aumento dei costi energetici. Sul fotovoltaico noi abbiamo riscontrato un aumento che va dal 20 al 25% ad inizio anno, e comunque prima della guerra, e poi si è abbastanza stabilizzato. Si sono un po' allungati i tempi, però diciamo che materiale se ne trova. Se prima eravamo in un paio di mesi, adesso abbiamo da 1 o 2 mesi in più, quindi 4 mesi. Pochi giorni fa il Ministero della Transizione Ecologica ha varato un nuovo provvedimento a favore del settore, semplificando per decreto le procedure per l'installazione di impianti fino a 200 kW. Bruno Carraro, imprenditore. La strada è quella di fare energia alternativa, non c'è, è data dalle rinnovabili. La migliore energia viene quella del sole, no? È gratis, diciamo così. Chi mette oggi un pannello fotovoltaico, e abbiamo fatto un calcolo che quei prezzi che sono adesso, che sono quasi arrivati a 0,60 centesimi a kilowatt, in tre anni e mezzo ammortizza l'impianto. Pordenone, Daniele Lettigi, TGR Friuli Venezia Giulia. La politica ora, con la campagna elettorale in vista del voto del 25 settembre. Ieri a Monfalcone ha presentato i suoi candidati in regione, la lista Alleanza Verdi e Sinistra. Rinnovata attenzione all'ambiente minacciato dai cambiamenti climatici, dignità al lavoro svilito da un precariato ormai dilagante, rilancio qualitativo dell'istruzione e della scuola. L'agenda dell'Alleanza Verdi e Sinistra è densa di proposte che da un lato riprendono i valori storici della sinistra, come la tutela delle fasce più deboli dalla pioggia di rincari generalizzati, ma dall'altro introducono anche spunti innovativi come il potenziamento parallelo della rete di ricarica per automotive e della mobilità ciclabile. La capolista al Senato Tiziana Cimolino. La priorità oggi è intervenire sulle politiche energetiche, autorizzare nuovi impianti verdi, pensare alle energie rinnovabili, cercando di aiutare i nostri cittadini con le bollette e tassare gli extra profitti con cui le multinazionali e molti altri si stanno arricchendo in questo momento di povertà energetica per le persone. La capolista di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, Serena Pellegrino. Dobbiamo far sì che la bellezza entri in maniera dirompente nella nostra quotidianità. Il patrimonio storico, paesaggistico, architettonico, naturale può e deve diventare la nostra grande risorsa culturale, ma anche economica, il nostro grande capitale. Vogliamo istituire politiche reali di supporto alla bellezza, recupero e valorizzazione dei beni storici, far nascere nuovi parchi. Le nostre bellezze vanno preservate e valorizzate. Monfalcone, Maurizio Mervar, TGR Friuli Venezia Giulia. Il ministro della cultura Dario Franceschini farà oggi visita in 3 località della regione con beni culturali interessati da interventi del ministero. Alle 11:15 sarà a Villa Manin di Passariano, alle 12:45 visiterà la Mideria Chiozza a Ruda e infine alle 13:45 a Gradisca al Castello. L'amministrazione comunale di Gorizia ha espresso rimostranze per la mancata visita del ministro nella città capitale europea della cultura 2025 con Nova Gorizia. E oggi anche il ministro per il turismo Massimo Garavaglia sarà in visita in regione, comincerà da Aquileia alle 10 per poi proseguire nel Collio dalle 12 alle 14.30, sarà a Cividale per concludere la giornata a Trieste alle 17.15. È convocata per le 18 la riunione del Consiglio Comunale di Trieste in cui si discuterà dell'approvazione del bilancio comunale del 2021 e la riorganizzazione dell'accesso al termovalorizzatore di Trieste di via Herrera. La cronaca ha mobilitata ieri anche la stazione del soccorso alpino della Valcellina per le operazioni di recupero in quota di una cordata sul campanile di Val Montanaia. Pare che i tre alpinisti che stavano scendendo lungo la via normale abbiano chiamato a voce aiuto poiché i telefoni non prendevano e che un camminatore sentendoli abbia avvisato il rifugio. I tre si stavano calando in corda doppia quando le corde si sono bloccate. A intervenire è stato l'elisoccorso del SUEM di Pieve di Cadore perché quello regionale era impegnato in altre operazioni. Arrivederci a Friuli Doc, la grande manifestazione dell'enogastronomia regionale che è stata chiusa ieri a Udine, un'edizione penalizzata nelle fasi iniziali dalla pioggia ma che ha potuto poi contare su grandi numeri. Centro di Udine preso d'assalto, complice la bella giornata. La 28esima edizione di Friuli Doc, la vetrina dell'enogastronomia del territorio, torna agli antichi fasti pre-pandemia. Tanta la gente tra gli stand per gli acquisti e tante le code per pagare chi ha deciso di mangiare qualcosa di tipico. Soddisfazione per gran parte degli espositori. I numeri sono buoni, ci dicono, anche se le prime giornate sono state guastate dalla pioggia. Massimo Petris, espositore. Rispetto alle scorse edizioni pre-Covid c'è una leggera flessione in quanto lo stato emozionale si era un po' perso della festa, ma stiamo lavorando per fare in modo che ci sia di nuovo il sorriso, lo splendore che c'era in passato. Francesco De Franceschi, espositore. Un bilancio positivo, diciamo, per la nostra piazza, per la carne è sempre positivo perché è la prima a iniziare e l'ultima a finire. Il problema è che secondo me manchiamo un po' di identità, cominciamo a dover ricaricare un po' le pile, rimettere in pista questo Friuli Doc. Paolo Parma, espositore. Pur essendo un tempo un po' instabile i primi giorni, però abbiamo ripreso la grande, abbiamo avuto una bella affluenza di persone, tante famiglie, un popolo un po' vario così. Abbiamo trovato una manifestazione fantastica, noi veniamo da Montesarchio precisamente, che è provincia di Benevento. Marco Cubessi, presidente proloco di Attimis. Tantissima affluenza, tantissima gente, molto contenti dei nostri prodotti. E anche noi siamo soddisfatti di questa bellissima manifestazione. Penso che dopo il periodo che abbiamo vissuto sia una bella cosa vedere così tanta gente che ha potuto ritrovarsi e approfittare delle qualità della nostra regione. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Ed è stata anche la domenica del ritorno in grande stile della Pordenone Pedala, 4.000 i partecipanti sul percorso non competitivo. La prima volta la Pordenone Pedala? No, la faccio da quando avevo 5 anni. Poi adesso che c'è mia figlia la facciamo assieme, è una bella festa. Una perfetta domenica mattina di settembre ha accolto i 4.200 partecipanti alla Pordenone Pedala. Tutti in sella alla propria bicicletta per la tradizionale manifestazione non competitiva arrivata alla 49esima edizione. È la seconda volta, ero piccolina quando sono venuta. Adesso voglio portare lui per la prima volta che ha 8 anni. Simo, sei pronto? Sì. Un'edizione tornata al completo dopo le restrizioni Covid che ha attraversato 5 comuni del Friuli occidentale: Pordenone, Porcia, Brugnera, Sacile e Fontana Fredda. Il presidente Luigi Tomadini. Siamo sulle 4.000 persone, una grande risposta ancora una volta, emozionante vedere tutto questo appoggio. I volontari operativi del nostro gruppo sono un'ottantina, ma poi per presidiare tutto quanto il circuito sono 180 persone. Conclusione al Parco Galvani con la classica pasta asciutta in compagnia. Ci siamo divertiti, questo è importante, stare insieme, percorso bello come sempre, in sicurezza, e questo è dare un merito veramente all'organizzazione. Io vengo da Ferrara, per cui una città delle biciclette, l'unica cosa che con l'età ho messo quella assistita. È stato bello, c'erano dei tratti che erano un po' stretti, però mi sono divertito molto e una volta ho rischiato di cadere. Impegnativa, però mi sono divertita un sacco. Fatica? Abbastanza, un pochino dai, però si fa, in compagnia si fa. La Pordenone Pedala è un evento a cui non si può mancare. Abbiamo riscoperto anche un po' la nostra provincia in bicicletta, andando più piano. Si vedono degli scorci che sono veramente meravigliosi. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. Il calcio, l'Udinese a un punto dal terzetto di testa, Milan, Atalanta e Napoli. Dopo 6 giornate a Reggio Emilia è arrivata la 4ª vittoria di fila dei friulani, che battono in rimonta il Sassuolo. Dopo la rete di Frattesi al 33esimo, l'espulsione di Ruantra e Neroverdi allo scadere del primo tempo, partita che cambia volto nella ripresa con l'ingresso in campo e il gol del pareggio al 75 di Beto. Al 90esimo la rete di Samardžić, nel recupero il secondo gol di Beto, che sale a quota 4 in stagione. Adesso l'attesa è tutta per l'arrivo domenica dell'Inter al Friuli nell'anticipo delle 12:30. Ma sentiamo l'analisi tecnica dell'allenatore dell'Udinese Andrea Sottil dopo il match di ieri. Mi aspettavo un Sassuolo aggressivo, invece il Sassuolo non è stato aggressivo. Noi siamo stati aggressivi, andavamo a prenderli alti e abbiamo anche riconquistato dei palloni. Non siamo stati, secondo me, così rapidi e precisi come siamo stati nelle ultime partite. Parlo della prima parte, e invece il Sassuolo ci aspettava. Poi hanno trovato un gol sulla nostra costruzione sbagliata e sono stati bravi a infilarsi, è l'unica occasione che hanno creato, perché poi i tiri in porta non ne hanno avuti. E quindi questa è stata la prima parte, poi noi siamo venuti fuori bene, abbiamo schiacciato la squadra lì, i ragazzi sono stati lucidi. Non sempre queste partite è scontato che vinca chi è in superiorità, tante volte si vede il contrario, e sono stati bravi a rimanere lucidi e a cercare di fare quello che gli avevo chiesto di fare. Per la Serie D, Tor Viscosa battuta da Campodarsico per 1-0, pareggia invece il Chialins Muzzane in casa della Luparense 1-1. Il risultato. Calcio femminile, Tavagnaco sconfitta all'esordio in Coppa Italia contro il Napoli, è finita 1-2. Si intitola Il calcio a Trieste, il libro scritto da Bruno Gasperutti, già giocatore e poi allenatore, con il giornalista Massimo Umek. Oggi in presentazione a Muggia, la pizzeria La Tappa, alle 18. Abbiamo raggiunto Umek per chiedergli una presentazione dell'opera. Il calcio a Trieste è un libro, una pubblicazione, 288 pagine, quindi anche tante, e praticamente racconta la storia di questo sport nella città giuliana dall'inizio fino ad oggi. I primi campionati erano nel 1919, quindi insomma 103 campionati raccontati bene. Insomma, nella prima parte di ogni capitolo si parla della Triestina e nella seconda invece si parla di tutto il resto per quanto riguarda i dilettanti. È stato un lavoro di ricerca mostruoso, praticamente di una vita intera, da parte di Bruno Gasperutti, che è un ex giocatore. Io gli ho dato una mano affinché insomma il tutto si realizzi. Non c'è nessun messaggio che volevamo dare, ma soltanto far avere una cosa che rimarrà, una pubblicazione, un libro che ogni qualvolta si vorrà cercare qualcosa di tutti questi anni che si è passati insomma qui a vedere partite, a giocare, insomma si troverà un po' di tutto, no? Quindi ci sono tante squadre, tante società che sono nate e poi purtroppo anche per problemi economici non ci sono più, tante ci sono ancora, e si parla anche molto della Triestina, insomma, che adesso c'è questo nuovo corso, no? Con questa nuova proprietà che ha preso il posto di quella australiana di Mario Biasin, insomma si racconta, diciamo, un po' tutto in modo dettagliato, insomma un racconto di tutti i campionati dall'inizio fino a un mese fa. Ed è stato un fine settimana con molte manifestazioni all'aperto e sportive, tra queste Cammino l'Italia, 2 giorni per appassionati e curiosi di Nordic Walking alla scoperta del territorio di Trieste. Attraversare l'Italia camminando con la tecnica del Nordic Walking, la disciplina nella quale, con il supporto di 2 bastoni, si cammina muovendo le braccia in modo opposto e alternato alle gambe. È l'obiettivo dell'iniziativa Cammino l'Italia, composta di 85 tappe percorse a staffetta nei weekend attraverso tutta la penisola, e che questo fine settimana è giunta anche nella nostra regione. Tra sabato e domenica, una ventina di partecipanti hanno percorso le tappe 46 e 47, con partenza da Muggia e arrivo a Medeazza, passando per Trieste. Bruno Vittori, maestro della scuola di Nordic Walking di Trieste. Queste due tappe le abbiamo studiate appunto per valorizzare il maggior modo possibile il nostro territorio, però allo stesso tempo dovendo cercare appunto percorsi ideali alle esigenze del Nordic Walking. Quindi non potevamo sicuramente affrontare salite, discese, terreni troppo insidiosi, che per il nostro caso non è facile. Il cammino, che si concluderà a Roma il 12 marzo 2023, ha visto impegnati finora oltre 1800 partecipanti e più di 300 istruttori. A organizzarlo la società italiana di Nordic Walking, di cui fa parte anche la sezione della Trieste Atletica che ha coordinato le due tappe triestine. Enrico Cimador, maestro della scuola di Nordic Walking di Trieste. L'idea è nata ancora in piena pandemia, quando si voleva dare un supporto a tutti gli istruttori e soprattutto anche ai camminatori che appartengono appunto alla scuola italiana di Nordic Walking o in generale che camminano, per fornire una specie di abbraccio a tutta l'Italia. La staffetta è partita il 5 marzo da Roma, quindi Lazio, ha proseguito per Campania, le isole, poi la parte sud, è arrivata nel Veneto e adesso è arrivata qui nel Friuli Venezia Giulia, in particolare a Trieste. Daniele Letti, TGR Friuli Venezia Giulia. Per la corsa in Val Tramontina, 45 chilometri con 1780 metri di dislivello del Three Lakes Trail, hanno incoronato Matteo Paladin e Cristina Chieu. Paladin, 29enne di Rive d'Arcano, ma nativo di Oderzo, è stato il primo a raggiungere sul traguardo di Tramonti di Sotto. Ha chiuso dopo una gara in solitaria dal primo all'ultimo metro in 4 ore, 15 minuti e 18 secondi, tenendo a distanza Marco Mazzoli, giunto a 7 minuti e 14 secondi, e Giovanni Canzi, arrivato con un distacco di 17 minuti e 25 secondi. Anche Cristina Chieu di Pinzano al Tagliamento, tesserata per l'Atletica Buia, ha fatto corsa in solitaria, concludendo la sua fatica in 5 ore 26 minuti e 10 secondi. Seconda Elenia Piroddi in 5 ore 49 minuti e 19 secondi. Terza Laura Sperandio in 6 ore 45 minuti e 55 secondi. Lo scorso maggio Cristina aveva corso lungo le sponde del Tagliamento, dalla sorgente alla foce, per sensibilizzare sulla salute del fiume, 194 chilometri in 4 tappe. A Trieste riapre oggi la piscina Bruno Bianchi, con prezzi per gli ingressi solo lievemente ritoccati con il consenso del Comune, nonostante l'enorme aumento delle spese per il riscaldamento. Per il nuoto libero previsti i soliti orari, lunedì, martedì, giovedì dalle 9 alle 22, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 20, per lasciare spazio agli allenamenti della Pallanuoto Trieste, sabato dalle 9 alle 15, domenica dalle 9 alle 13. Per accedere all'impianto bisogna prenotare tramite piattaforma digitale sul sito piscinabianchi.it. Sembra andare verso una conclusione il periodo di commissariamento della FISI, la Federazione Italiana Sport Invernali del Friuli Venezia Giulia, dopo le irregolarità di voto emerse nell'assemblea di fine luglio. Il 1 ottobre verrà proclamato il nuovo presidente regionale della Federazione Sport Invernali, dopo che le elezioni di fine luglio erano state annullate per irregolarità di voto. Il commissario Walter Vedam ha indetto, proprio per il 1 ottobre, l'assemblea straordinaria elettiva del Comitato Fisi della nostra regione, dove oltre al presidente verranno scelti i 10 consiglieri, le cui candidature dovranno essere depositate entro il 16 di settembre. A luglio il tarvisiano Maurizio Dunhofer venne riconfermato all'unanimità alla guida della Fisi regionale, incarico che probabilmente andrà a ricoprire anche nei prossimi 4 anni. Dunhofer, ex allenatore di salto ed ex presidente di Promotour, attualmente ricopre anche il ruolo di presidente di EIOF, il Festival Olimpico della Gioventù Europea, che si svolgerà nel gennaio del 2023 nelle località sciistiche del Friuli Venezia Giulia. Le elezioni regionali della FISI precederanno quelle nazionali del 15 ottobre a Milano, dove la nostra regione è rappresentata da 2 consiglieri, la campionessa del mondo di sci di fondo Gabriella Paruzzi e il dirigente di Promoturismo FVG Enzo Sima. E per la stanza dei bottoni di Via Piranesi, in questi giorni è spuntata la candidatura di Tiziana Candoni, coordinatrice del liceo degli sport invernali Bachmann di Tarvisio. Trieste, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia. La cultura si è spento ieri a Madrid lo scrittore e saggista spagnolo settantenne Javier Marías, tradotto in tutto il mondo e vincitore dei più importanti premi letterari, tra cui il Nonino, che gli era stato aggiudicato nel 2011. Tra le sue opere più note il romanzo Un cuore così bianco, sulla dimensione della colpa e del segreto, e Domani nella battaglia Pensa a me, sulle sfumature della verità. Sono il duo francese Okada Keneson e il trio Orelon, composto da musicisti spagnoli, tedeschi e italiani, e il trio Pantum, Francia, Corea del Sud, i finalisti della 21esima edizione del premio Trio di Trieste. La prova finale della competizione, organizzata dall'associazione Chamber Music, si terrà oggi a Trieste, al Teatro Miela, alle 9.30. A seguire il concerto dei premiati alle 20.30. Presidente della giuria Giuseppe Torre, dal 91 primo contrabbasso dell'orchestra e della filarmonica della Scala di Milano. Il Montepremi di quest'anno conta su riconoscimenti per 30.000 euro, numerosi premi in palio, dal primo premio Trio di Trieste, quest'anno in ricordo di Dario Samer, del valore di 9.000 euro, oltre al premio speciale Anna Maria e Giorgio Ribotta, da 5.000 euro, che prevederà inoltre una serie di concerti. Il secondo premio elargirà 5.000 euro, il terzo 3.500, offerto da ex studenti di Renato Zanettovic in memoria del maestro del Trio di Trieste, scomparso quest'anno. È andato a un musicista del Kazakistan, Ruslan Talas, il primo premio del concorso violinistico Rodolfo Lipitzer di Gorizia. Talas si è imposto tra 15 concorrenti ammessi alla seconda prova. Per Talas un premio in denaro da 15.000 euro e un violino realizzato dalla scuola di liuteria Stradivari di Cremona, oltre alla possibilità di suonare il violino di Rodolfo Lipitzer nel concerto dei premiati ieri sera al Teatro Bratos di Gorizia. Molto alto, hanno detto gli organizzatori, il livello musicale tecnico dei concorrenti, e quindi impegnativo il lavoro valutativo della giuria presieduta dal compositore Andrea Mannucci. Nei primi sei posti anche due musicisti arrivati dal Giappone e due dalla Cina. Per gli appuntamenti musicali odierni, il cornista Francesco Mattioli, vincitore del secondo premio e del premio del pubblico al concorso internazionale Città di Porcia 2021, accompagnato dal quintetto d'archi Arrigoni, si esibirà in musiche di Mozart e Sinigaglia per il primo appuntamento della rassegna Aspettando il concorso, appuntamento a Pordenone al Teatro Verdi alle 20.45, ingresso gratuito. Il segreto di Antekirt, lo spettacolo liberamente tratto dal romanzo ambientato a Trieste Mathias Sandorf di Jules Verne, che sarà in scena a Trieste al Politeama Rossetti alle 19.30, regia di Luciano Pasini, adattamento teatrale di Elke Burul. 7.45, diamo inizio alla rassegna stampa dei quotidiani oggi in edicola, l'apertura del Piccolo nell'edizione di Trieste per la crisi della Wärtsilä, con il calcolo di 1,5 milioni di euro a carico della multinazionale finlandese, secondo quanto finora stabilisce la legge per il licenziamento dei lavoratori senza ragione. Spazio poi al raddoppio della centrale nucleare di Krško, che consentirebbe l'acquisto di energia elettrica a prezzi competitivi nel progetto di Federacciaie Ansaldo Nucleare. Il piano sarà discusso domani nel Consiglio Generale delle Imprese Siderurgiche. Capocronaca interno, la riapertura delle scuole con la comunicazione inviata dal Comune per vietare foto e condivisioni di immagini scattate durante le lezioni, secondo quanto stabilito dalla direttiva per la privacy. Per la giudiziaria, la deposizione in tribunale di richiesta di appello presentata dal legale che difende l'agente che fu ferito alla mano da Alejandro Meran nella sparatoria in questura del 2019. Il ricorso ritiene l'assassino dei due agenti, Domenico e Rotta, capace di intendere e di volere, a differenza di quanto giudicato in primo grado. Scuole meno studenti e 2.800 docenti precari è il titolo di apertura del Messaggero Veneto, edizione di Udine. In tutta la regione si legge, ancora si fa sentire la crisi demografica. Nella fotonotizia il calcio e la gioia dopo la vittoria sul Sassuolo, grande estate bianconera, il titolo udinese seconda in classifica, vittoria in rimonta, Beto segna una doppietta. Di spalla il lavoro dall'ingegnere al cuoco al saldatore. Le aziende cercano 500 addetti. Si parla delle 7 giornate di reclutamento che la Regione, attraverso la struttura servizi alle imprese, ha organizzato proprio per la selezione di personale. Sotto si parla ancora del rapinatore residente a Udine, dimesso dall'ospedale, trasferito in carcere dopo l'assalto fallito a un centro commerciale in Veneto. E ancora un titolo: alle 2 mi sono ritrovata il ladro sul pianerottolo, è il racconto di una residente di Viale Venezia a Udine. Poi Avenzone, il supermercato a rischio chiusura, l'unico nella cittadina, 12.000 euro di bollette arrivate. In taglio basso, Friuli Doc fa il pieno, la manifestazione apre la cronaca cittadina con la richiesta da parte di molti di un programma più ricco di musica. Fotovoltaico, stop ai vincoli paesaggistici e l'apertura del Gazzettino d'Orso del Friuli. Nella fotonotizia anche qui un ritratto di Beto per la sua doppietta di ieri al Sassuolo. Titolo in evidenza anche per i nuovi investimenti in arrivo al Marina Punta Faro di Lignano, ceduto all'operatore internazionale di Marin. Di spalla Valbruna, i 110 anni dei pompieri volontari, eredità degli Asburgo, e in taglio basso il calcio di Serie D e il basket. L'apertura dell'edizione di Gorizia del Piccolo è dedicata al completamento del raccordo ferroviario con Nova Gorizia per il 2025 in occasione degli eventi della Capitale della Cultura. Altro servizio, quello con la nomina del neo presidente Alessandro Gallo, presidente dell'azienda speciale farmaceutica di Gorizia, che comprende le farmacie comunali di Sant'Anna e di Sant'Andrea. Tra i suoi progetti l'ampliamento della sede di Sant'Anna e degli organici. Spazio poi al Tour Isontino Classic, manifestazione di auto d'epoca in calendario ieri a Gorizia e a Mossa. Da Monfalcone, il progetto di rinnovamento dell'area ex Coop di Via Colombo con la costruzione di una nuova zona commerciale ad opera di una società immobiliare reggiana. Altro servizio, quello sui 95 allievi in più alle superiori rispetto allo scorso anno, che oggi iniziano le lezioni. Sul Gazzettino di Pordenone la fotonotizia a centro pagina è per l'affollatissima Pordenone Pedala di ieri. A fianco un titolo per la scuola: si ricomincia ma mancano prof e collaboratori, e c'è poi un richiamo per la task force antibullismo coordinata dall'azienda sanitaria. Di spalla Sacile, parcheggi rosa riservati alle donne solo sulla carta, mentre ad Azzano il progetto Giovani ha riaperto le porte. In taglio basso lo sport con il fan club del Pordenone che promuove comunque i neroverdi dopo il pareggio beffa con la Juve Next Gen e i successi nella pesistica di Sara Dalbò. Sul Messaggero Veneto, a differenza dell'edizione di Udine, la colonna di cronaca con il ricordo del Papa ieri all'Angelus della suora morta in un attentato in Mozambico nella missione dove operano due sacerdoti friulani scampati all'attacco. Le parole del pontefice su Suor Maria, testimone di forza e coraggio per i cristiani, aprono la cronaca cittadina insieme a due pagine ricche di foto sulla Pordenone Pedala. Un titolo ancora per Sacile, i redditi dei consiglieri, e sotto i posti di lavoro 500, anche qui, vacanti in regione. Ed entrano in vigore oggi gli orari invernali del trasporto pubblico locale in Friuli Venezia Giulia, in particolare a Trieste. Tra le principali modifiche, il ritorno delle linee 55, 56 e 57, mentre per la galleria di Montebello restano modificati i percorsi delle linee 20, 21, 23, 34, 40, 41 e gli orari della linea 18 e della linea 34. Ritorna inoltre la linea 17, barrato nei giorni festivi fra Piazza della Libertà e Via Valerio. Alcune corse della linea 6 transiteranno in Porto Vecchio, sostituendo così la linea 81. Nei soli fine settimana, fino al 25 settembre, continuerà a funzionare la linea 36 fra il Bivio di Miramare e Largo Tomizza con il consueto orario estivo. Con il nuovo orario invernale, infine, due nuove coppie di corse sono state aggiunte alle linee 44 e 51. Resta ancora sospesa la linea 19, sostituita dalla linea 34. Tutti gli orari in versione PDF sono disponibili e scaricabili dal sito di TPL FVG alla sezione Servizi e Orari. Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda su questa rete dopo il GR1 delle 11 con la presentazione dei programmi regionali e l'edizione flash del giornale radio. A seguire WEOF Evelyn D con video inchiesta di Martina Del Piccolo e Angelo Floramo, una vivace galleria di testimonianze ispirata a Pierpaolo Pasolini. Alle 11.20 andrà in onda la radio che pedala, alle 11.55 l'appuntamento con foto radio. I programmi regionali tornano poi alle 14. Ed è tutto per questa edizione del giornale radio regionale. In regia Mauro Coloni e Tommaso Vinoni. In redazione ha collaborato Manuel Bussani. Da Maria Spezia e Rita Micoli, grazie per l'ascolto e l'augurio di un buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.